Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Marianna Stefanucci. Il genio è la capacità di vedere 10 cose laddove l'uomo comune ne vede solo una e dove l'uomo di talento ne vede 2 o 3. Questo è quello che diceva Ezra Pound, il grande poeta modernista. Oggi a Destini Incrociati raccontiamo la storia di un uomo capace di vedere almeno 10 cose. Un uomo curioso, caparbio, ispirato e visionario che ha rivoluzionato il mondo della moda, a partire dall'Italia per poi contaminare tutto il mondo. Il suo nome è Gianni Versace. Gianni Versace. Gianni fu uno, a parte il suo genio assoluto, che secondo me si è identificato anche col massimo fulgore del Made in Italy, anche perché aveva un concetto culturale, non solo moda, del Made in Italy. Sono le parole di Klaus Davi. Gianni Versace ha dato un'impronta personale intramontabile all'estetica del lusso. Ha messo in piedi un'impresa che fattura decine di milioni di euro all'anno e che conta innumerevoli negozi monomarca nei punti strategici delle più belle città del mondo. Ha vestito le dive come Madonna e le principesse come Lady Diana. Soprattutto, ha inventato un immaginario che da individuale si è fatto collettivo. Tutto questo fino al tragico momento. 15 luglio 1997, siamo in pieno giorno e Versace sta salendo i gradini della sua splendida villa di fronte all'oceano di Miami, Florida, ma non fa in tempo ad arrivare alla porta perché viene freddato dalla mano precisa e implacabile di Andrew Cunanan, giovane gigolò tossicodipendente dal passato torbido. I media di tutto il mondo riportano la notizia con incredulità. Hello, welcome back. These are pictures from Miami, where the fashion designer Gianni Versace has been shot dead outside his villa on the Ocean Drive. Le circostanze del delitto fin dall'inizio appaiono tutt'altro che chiare. Cunanan è già schedato dalla polizia che lo sta ricercando per altri omicidi commessi nei mesi precedenti. Dopo aver ucciso Versace, si rifugia in una casa galleggiante, di certo non il luogo ideale per scappare una volta braccato. Un custode, non appena sente dei rumori provenire dall'interno, chiama gli agenti che intervengono immediatamente, mobilitando più di 7 unità, tra le quali Guardia Nazionale, Vigili del Fuoco e FBI. Lanciano dei fumogeni contro le finestre per far uscire Cunanan allo scoperto, ma da dentro solo silenzio. L'assassino ha preso la sua calibro 40 e si è suicidato. La notizia è raccontata nel dettaglio dalle cronache. È in questa casa che si conclude la più grande caccia all'uomo, dopo l'assassinio di Kennedy e Martin Luther King. Tutto è come la sera del 23 luglio. I suoi pochi effetti personali. Una poltrona usata come letto improvvisato. La camera da letto. Un materasso distrutto, sventrato. I vetri delle finestre rotti da una pioggia di lacrimogeni che lasciano vive macchie rosse, come fosse sangue. Tutti piangono Gianni, un uomo generoso, simpatico, di intelligenza raffinata. I parenti non si capacitano di cosa sia successo e chi gli sta vicino esprime un dolore profondo. Proprio come Naomi Campbell, la Pantera Nera, la modella che con lui è diventata una delle più grandi regine della passerella di tutti i tempi. Una donna che normalmente nelle interviste è piuttosto fredda e distaccata e che invece per Versace si abbandona alla inconsolabile tristezza. It's a crime that's disgusting and uncalled for and it should never happen to anybody ever. È incredibile e orrendo. Non so come abbiano potuto fare una cosa del genere. Provo grande sofferenza per sua sorella Donatella e suo fratello Santo. Lui girava sempre per strada da solo, non ha mai voluto una guardia del corpo. Lui credeva nella gente. Voleva soltanto fare il suo lavoro, stare bene, essere felice e rendere felice la gente che gli stava intorno. This is the place I call my home. Gianni Versace aveva in testa un'idea ben chiara. La moda non è qualcosa di superfluo di cui si può fare a meno. Gli abiti rappresentano chi siamo, sono il nostro biglietto da visita e in quanto tali non bisogna lasciarli al caso. A portare avanti la sua eredità, sia dal punto di vista strettamente economico che ideale, sono sua sorella Donatella e suo fratello Santo, il quale dice: la moda va usata, va strumentalizzata. Non bisogna farsi strumentalizzare. Non bisogna farsi usare dalla moda. Ognuno di noi deve vestire la propria anima. Un concetto apparentemente ovvio, che può sembrare scontato, ma che invece è altamente filosofico. Se ne è occupato anche lo studioso Georg Simmel, che ha parlato di moda come di un fenomeno che riesce contemporaneamente a unire, a far sentire parte di un gruppo, a differenziare, perché ognuno nella moda può trovare espressione della sua unicità, pur in un linguaggio comprensibile agli altri. La moda, in questo tempo impaziente in cui viviamo, risponde all'esigenza di continuo rinnovamento. Rappresenta il fascino che le novità esercitano su ciascuno di noi e che sono anche continuamente messe in ricircolo. Più di qualsiasi cosa, la moda è eccitazione e cambiamento. Un concetto che Santo Versace esprime a modo suo. La moda rappresenta cultura. Come tutti i prodotti di alta gamma, rappresentano cultura. Rappresenta una costante innovazione, continua. La moda è un settore che ha una marcia in più, perché all'anno di 6 mesi. La moda è una scommessa continua, da una parte innovazione costante, un mondo globalizzato, perché la moda nasce globalizzata, cioè chiunque ha talento scende in campo e conquista la sua quota di mercato, di qualunque razza, di qualunque religione e di qualunque paese. Di certo Gianni di talento ne aveva da vendere. La sua era una predisposizione innata verso il gusto e lo stile che lo ha fatto entrare a pieno titolo nell'Olimpo del fashion. Una predisposizione unica che lo rende un personaggio indimenticabile e che parte da molto lontano. Gianni Versace, classe 1946, nasce a Reggio Calabria da una madre sarta che fin da subito gli fa assaporare il piacere di prendere in mano uno spillo e accorciare un orlo, inventarsi una scollatura, imbastire una camicia con un taglio perfetto. Lei ha un piccolo atelier nel cuore di Reggio, proprio di fianco al Duomo, e Gianni da ragazzino ama fermarsi lì al ritorno da scuola. Per lui è bellissimo guardare attraverso la vetrina le signore eleganti che passano, salutano sua madre con un cenno della mano e vanno a messa a braccetto col marito. D'altra parte Gianni si sente profondamente attaccato alla sua terra. Sente che se non fosse nato e cresciuto nella sua Calabria, non sarebbe diventato quello che è. Reggio è il regno dove è cominciata la favola della mia vita. La sartoria di mia madre, la boutique d'alta moda. Il luogo dove da piccolo cominciai ad apprezzare l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide, dove ho cominciato a respirare l'arte della Magna Grecia. Quella dei fratelli Versace è un'infanzia serena e divertente. Gianni, Santo e Donatella vanno d'accordo, a parte qualche normale screzio tra fratelli che si vogliono bene. Non manca niente per essere felici e in casa si respira un'aria di gioia che Santo ricorda così. Noi abbiamo avuto dei genitori straordinari. Mio padre, mia madre se ne è parlato tanto, mio padre è stato un uomo straordinario, a parte essere un grande atleta, vinceva le corse ciclistiche, giocava al pallone, vinceva le corse campestri, ma è stato un grande commerciante. Mio padre era di testa, era liberale, cioè non, erano avanti, cioè erano già del 2000. E infatti, quando Gianni, ormai 25enne, annuncia che si trasferirà a Milano, la città della moda, la notizia è accolta con grande soddisfazione da parte di tutti. Sono tutti felici perché finalmente potrà costruire da solo la sua carriera e il suo futuro. Andrà a fare il disegnatore d'abiti, quello che ha imparato nella boutique della mamma, quello che ha sempre sognato diventasse la sua vita. Milano, 1972. Quando Gianni arriva in stazione centrale, si guarda intorno con le sue valigie in mano e capisce immediatamente che la sua scelta è stata quella giusta. Uomini e donne che camminano a passo veloce verso l'ufficio, curati nell'abbigliamento fino al minimo dettaglio, grandi manifesti pubblicitari che tengono un'intera parete dei palazzi, taxi che fanno zigzag tra i vecchi tram arancioni. Il 1972 è un anno cruciale per la città, che è in pieno fermento. Viene ucciso il commissario Calabresi e mentre l'atleta Pietro Mennea è primatista europeo dei 100 metri piani, il carcere di San Vittore è in rivolta. Il piccolo teatro è appena stato affidato alla direzione di Giorgio Strehler dall'amico e cofondatore Paolo Grassi. Il Corriere della Sera, invece, passa nelle mani di Piero Ottone. Giorgio Gaber, stanco di una televisione che lo ingabbia, diventa l'istrionico e indimenticabile signor G, l'inventore del teatro canzone che con l'amico Enzo Iannacci racconta una Milano vibrante tra personaggi strampalati e vecchie osterie sui navigli. Ma che dice che l'han trovato denudato senza scarpe, già sbarbato? Ma che dice che gli han trovato un coltello con la lama di sei dita nel costato? Don Misterio, sto coltello non è roba mia, ma c'ho l'alibi, a quell'ora sono quasi sempre via. Hey! Gianni Versace è troppo in gamba per non ambientarsi subito nella sua nuova vita. Ogni mattina prende il tram e va a lavorare presso Jenny, una grande casa di moda di prêt-à-porter, un metodo produttivo che è diventato categoria di vestiti e che tradotto dal francese significa pronto da indossare. Il prêt-à-porter si contrappone infatti all'alta moda ed è costituito da abiti non realizzati su misura, come Gianni ha imparato da sua madre, ma venduti finiti in taglie standard pronti da indossare. Insomma, il prêt-à-porter rappresenta il passaggio dalla sartoria artigianale all'industrializzazione del tessile, un passaggio fondamentale che il professor Ciappei dell'Università di Firenze descrive così. Se si va a vedere il fenomeno abbigliamento, soprattutto, non ha avuto grandi mutamenti tecnologici. Sì, abbiamo il Gore-Tex, abbiamo qualche fibra particolare, però l'innovazione è stata soprattutto un'innovazione del processo produttivo. È stata un'innovazione di come il prodotto viene concepito, dei tempi di suo sviluppo e di gestione di quella enorme catena logistica e informativa che a livello globale connette la cosa. Gianni disegna gli abiti, passa le giornate con la schiena curva sul tavolo e una matita in mano. È un attento osservatore e si ispira a quello che lo circonda, ma mette sempre un tocco estremamente personale che ne connota immediatamente lo stile. Tutti si accorgono che è bravissimo e in poco tempo riesce a spiccare il volo da solo. Nel 1975 presenta la sua prima intera collezione di abiti per Complice, un'altra casa di moda, mentre è del 78 il debutto ufficiale. Al Palazzo della Permanente di Milano, le signore sedute in prima fila possono vedere sfilare in passerella la prima collezione donna firmata solo e semplicemente Gianni Versace. La direzione stilistica di Versace fin da subito è chiara. Una ricetta per avvicinare la moda elegante e quella sportiva, quella maschile e quella femminile. I materiali usati sono piuttosto insoliti, pelle, metallo e gomma, mentre i colori sono sgargianti, i tessuti stampati e abbondano decori e ricami. L'estro di Gianni è una sfida, prima ancora con se stesso che con gli altri. In palio c'è un equilibrio tra opulenza e gusto, stravaganza e classe, che immediatamente ne decreta il genio. Dalla sua parte, naturalmente, c'è la grande esperienza manuale, pratica, come ricorda il fratello Santo. Anni 70 si afferma e lui comincia a affermarsi il Made in Italy. Ma è proprio la sintesi di tutto quello che è il fenomeno italiano, perché noi quando parliamo di dobbiamo parlare di cultura del fare, cultura del saper fare con le proprie mani. Chiaramente, due in particolare, cito sempre due in particolare, Gianni e Salvatore Ferragamo, perché erano due che da artigiani veri, gente che sapeva fare con le proprie mani, all'artigianato ha raggiunto le vette massime di espressione, di creatività, di innovazione dell'arte in certi momenti, si può dire anche. La prima collezione Versace è un successo. Si era già sparsa la voce nell'ambiente che questo ragazzo di Reggio fosse particolarmente dotato, ma adesso il suo impressionante talento è sotto gli occhi di tutti. Nei mesi successivi, il lavoro di Versace cresce in maniera esponenziale. Le donne vogliono vestire Versace per sentirsi alla moda e contemporaneamente uniche, eleganti e nello stesso tempo moderne. E Gianni, per rispondere alla continua domanda, si comincia a organizzare. Mette in piedi una fabbrica e poi un'altra, e in poco tempo il suo diventa un piccolo impero. Quando chiama a casa i suoi genitori, l'orgoglio è talmente grande che la mamma si mette a piangere dalla commozione. Anche perché Gianni ha fatto tutto da solo, senza spinte, senza appoggi, senza aiuti da nessuna parte. semplicemente per farlo sfondare. È bastato il suo talento. Gianni Versace, non ci sarebbe la Gianni Versace senza Gianni Versace, né la Giorgio Armani, né la Salvatore Ferragamo, né tante altre. Quindi il talento del singolo serve per far nascere un'impresa, per far nascere un'azienda, per indicare i primi passi. Gianni ce l'ha fatta, è riuscito a realizzare il suo sogno, lavorare nella moda, ed è riuscito a farlo entrando dalla porta principale, dalle sfilate di Milano, che rappresentano il punto di arrivo per ogni stilista. Eppure sente che gli manca qualcosa. Gli viene universalmente riconosciuta un'incredibile bravura nel disegnare abiti, ma c'è qualcosa che ancora lo rende insoddisfatto. Sente che è come frenato perché la sua fantasia è illimitata, deve fare i conti con la vendibilità. Un'arma a doppio taglio perché significa anche scendere a compromessi con il gusto del tempo, non soltanto dettarlo. Sente che c'è ancora qualcosa che può dimostrare, qualcosa che questa volta non può dimostrare da solo. Tra poco, a Destini Incrociati. A Destini Incrociati sono gli anni 70 e un bell'uomo elegante, dai modi gentili e il sorriso stampato sulla bocca, ha appena conquistato Milano. Si chiama Gianni Versace, viene da Reggio Calabria e grazie al suo talento ha sfondato nel mondo della moda, prima solo in Italia e in pochi mesi nel mondo. Il New York Times lo inserisce nel selezionatissimo elenco dei veri creatori. Ogni 10 anni, scrive, nasce un genio: Chanel, Dior, Balenciaga, Yves Saint Laurent. E ora è il turno di Gianni. Gli esperti gridano al miracolo, come dimostrano le dichiarazioni dei critici. Le ragioni del successo di Gianni Versace sono legate al suo appeal universalmente riconosciuto. L'approccio di Gianni Versace alla moda è un'alchimia inaspettata di tributi alle arti e alla storia del costume. Uno stile unico e facilmente identificabile, ricco, lussuoso, che per definire il presente rende omaggio al passato proiettandolo nel futuro. Una sintesi decisamente lusinghiera per un uomo che dedica tutta la sua vita al suo lavoro. Un esteta a tutto tondo che costruisce la sua carriera senza lasciare nulla al caso. Per esempio, scegliendo per le sue campagne i migliori fotografi del mondo, a partire da Richard Avedon, grande ritrattista e cultore del bianco e nero, artefice di quella nuova linea artistica che non prevede più le modelle irrigidite in una posa statica, ma immortalate in un contesto vivo, per esempio per la strada o per i locali notturni. Versace, in qualche modo, inventa le supermodelle. C'è una foto molto famosa in cui lui è ritratto con tutte le sue ragazze e che fa il giro del mondo. Siamo negli anni 80, gli anni del glamour, delle auto di lusso, dei giovani rampanti in carriera, dello scenario dell'apparire. Le top diventano il sogno proibito degli uomini e il mito che le donne vorrebbero diventare. Le sfilate diventano dei veri e propri avvenimenti che catalizzano l'attenzione dei giornali e delle TV e che per la prima volta sono indirizzate anche al grande pubblico televisivo. L'immagine è ciò che conta. La pubblicità, oltre che sul mercato, detta le regole anche in materia di comportamenti nella vita di tutti i giorni. Milano, insieme a New York e Parigi, è una delle capitali del lusso e del fashion. E Gianni, pur viaggiando moltissimo, è legato a lei indissolubilmente. Ed è proprio Milano che una sera gli serve su un piatto d'argento la svolta della sua vita. Sfilata di Versace, parterre ricco di dive e personaggi del jet set. Lontano dalla passerella, da solo, con appoggiata intorno al collo una sciarpa rossa, siede un uomo raffinato che intrattiene la signora vicino a lui con un forte accento francese. È uno dei più grandi ballerini e coreografi del mondo. Il suo nome è Maurice Béjart. Maurice Béjart. Il suo bolero, sulle celeberrime note di Ravel, è diventato uno dei più citati balletti di tutti i tempi ed è entrato a pieno titolo in quel repertorio classico che è il punto di riferimento per chiunque approcci la danza, come esecutore o semplicemente come cultore. Un mondo, quello della danza, complesso e affascinante. Perfetta sintesi tra sport e arte che il ballerino Roberto Bolle racconta così. Nella nostra arte, che comunque è bellissima, ma è anche molto difficile, molto delicata, e bisogna essere veramente pronti, preparati, e non è sempre facile essere al massimo livello. Il mondo della danza deve moltissimo a Maurice Béjart. Alla sua morte nel 2007, la grande ballerina italiana Carla Fracci lo ha definito il dio della danza. Pubblico e critica si inchinano alle sue creazioni, ai suoi balletti che sono affreschi pittoreschi ed emozionanti, che raccontano un'intera storia senza parole, solo col movimento, con l'uso di quei corpi perfetti che sono macchine con l'anima. Le sue coreografie sono come viaggi nella storia dell'uomo, nella geografia delle civiltà, nella religiosità, nella musica senza frontiere, dove non esiste né spazio né tempo. Grazie alla sua diversità e complessità d'artista, i suoi lavori non seguono una linea unica, uno stile che è sempre lo stesso, ma cambiano ogni volta. Béjart è nella danza quello che Versace è nella moda. Un genio sempre pronto a portare il nuovo, che mescola classico e moderno. Tanto che la sua creatività non si può collocare. Semplicemente Béjart è Béjart e nessun altro. E pensare che lui, con grande umiltà, parla di sé in questo modo. Io sono solo un ragazzo che è stato folgorato dalla danza. Da quando ho visto quello spettacolo di Serge Lifard, ho capito che la mia vita era il palcoscenico. Poi ho iniziato a lavorare con Roland Petit. Lui mi ha cresciuto. A lui devo tutto quello che sono. Roland Petit, il mentore di Béjart, non è un ballerino qualsiasi. È autore di più di 50 creazioni che spaziano in tutti i generi. Ha ideato coreografie per un universo di danzatori internazionali. Ha rifiutato gli effetti tecnici gratuiti e non ha mai smesso di rinnovare il suo stile e il suo linguaggio, diventando maestro sia nell'arte del pas de deux, del balletto narrativo, quello che racconta una storia, sia in campo più astratto e legato alla danza contemporanea. Normale che da lui Béjart abbia potuto imparare moltissimo, prima di tutto ad amare il teatro, che grazie alla sua famiglia aveva conosciuto fin da piccolo. Maurice Béjart, faccia tonda, lunghe sopracciglia nere e occhi di ghiaccio, nasce nel 1927 a Marsiglia, costa francese. Una città tanto complicata quanto romantica, con le sue storie di marinai e quartieri difficili. Ma lui è molto fortunato perché viene da una famiglia benestante. Figlio del filosofo Gaston Berger, mentre segue i corsi di classica, continua a studiare, prima al liceo e poi all'università. Finché la passione prende il sopravvento e Maurice decide di dedicarsi completamente alla danza. In poco tempo, visto il suo straordinario talento, approda prima all'Opéra di Parigi e poi a Londra. È un grande ballerino, ma non gli basta. Diventa coreografo perché solo così può permettersi di dare interamente spazio alla fantasia e mettere in scena i suoi sogni. Un lavoro che è la sua vita, come dichiarerà lui stesso in un'intervista. Detesto il balletto, gli orrendi tutù e la volgarità dei fondali di carta pesta. Non sono un coreografo, ma un uomo di spettacolo totale. Amo scegliere i gesti e le parole, curare le scene, le musiche, gli effetti speciali e ogni dettaglio, attingendo a qualsiasi forma d'arte. La sua sterminata cultura gli permette di spaziare tra letteratura e cinema, musica e arte figurativa, per cercare di cogliere stimoli da qualsiasi parte e darne una sintesi tutta nuova e personale. Ballare è una virtù del cervello, prima ancora che delle gambe. Dopo aver messo in scena numerosi balletti, da L'Inconnu a Stoccolma all'Uccello di Fuoco su musiche di Stravinsky, fonda una compagnia che inizia a fare il giro del mondo e ad appassionare alla danza moltissimi neofiti. Si tratta del balletto del XX secolo di Bruxelles, che in poco tempo diventa centro nevralgico dei ballerini di tutte le nazionalità. Béjart li accoglie, li alleva come figli. Giorno dopo giorno, correzione dopo correzione, i ragazzi imparano ad affrontare il palcoscenico e la vita con dedizione e disciplina. Non è facile intraprendere la carriera del ballerino classico. Ore e ore di allenamento quotidiano, estenuanti e ripetitivi esercizi alla sbarra, costrizioni fisiche da autoimporsi per cambiare il proprio corpo, piegarlo all'arte. Non è difficile in una grande sala prova vedere un bambino che si schiaccia i piedini sotto un termosifone per tenerli bene aperti, e molto frequenti sono i piedi sanguinanti delle ragazze dopo faticosissime e dolorose prove in punta. Ma tutto questo non è niente in confronto alla gioia di salire sul palco ed esibirsi davanti a un pubblico estasiato. Quello della danza è un mondo sorprendente e magico, di cui centinaia di bambini e bambine al mondo vorrebbero far parte, ma che ha una selezione rigidissima. Solo la perfezione è accettabile. Bene, ragazze! Un momento, ragazzi, un momento. Alt, Michael! Ma che cosa vi succede? Siete tutti così bellini, e io li detesto, i bellini. Ci vuole sudore, forza, dovete sfidare l'inerzia, vincere la legge di gravità. E quando uscite di scena dovete aprire le ali come se doveste spiccare il volo. Non lo fate questo, sembra che abbiate il culo di piombo. Ma viamo lo stesso, siete bravi, ok? Siete bravi, coraggio, ok? Béjart pretende moltissimo dai suoi ballerini e i risultati gli danno ragione. Successo di pubblico, di critica, tutti si inchinano al suo straordinario talento. Ma a lui, che vede il teatro come uno spettacolo a tutto tondo, questo non basta più. Non gli basta conquistare gli spettatori. Li vuole travolgere, farli entrare nel suo sogno. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo all'inizio degli anni Ottanta e due grandi geni stanno per incontrarsi per dare vita a una favola. Uno è Gianni Versace, eccentrico e talentuoso stilista che dalla provincia calabrese ha conquistato le passerelle internazionali. L'altro è Maurice Béjart, ballerino e coreografo che ha rivoluzionato il mondo della danza perché l'ha concepita come teatro a tutto tondo. Béjart adesso sta assistendo a una sfilata di Gianni e a un tratto a una folgorazione. Maurice guarda l'orologio un po' stanco, ha provato tutto il giorno, adesso ha voglia di andare a casa a riposarsi. Gli orari sono serrati quando si prepara un nuovo spettacolo e la sveglia suona presto. Le modelle sfilano una dopo l'altra, impeccabili. Fanno avanti e indietro sfiorandosi in una metaforica staffetta. Una di loro, piglio deciso sul tacco 12, inciampa. Si rialza in un attimo, come se niente fosse, ma l'incidente riesce comunque a catturare l'attenzione di tutti, soprattutto di Béjart, che a distanza di anni ricorda. Quella modella, senza accorgersene, ha accennato un passo di danza. Il tonfo così rapido e la risalita potevano essere stati coreografati. E il suo vestito, una gonna ampia, piena di pizzi e colori, si è aperta creando un effetto stupendo. Per Béjart è un'illuminazione. Forse quello che manca ai suoi spettacoli per essere davvero perfetti sono i costumi di scena. Non che non siano studiati, certo, ma non nel modo che vorrebbe lui. E così, dopo la consueta passerella dello stilista a fine sfilata per prendere gli applausi, Béjart va dietro alle quinte per parlare con Gianni, che appena lo riconosce da grande amante della danza, si emoziona come un bambino. A ricordarlo è lo stesso Gianni. Avere lì il grande maestro, venuto alla mia sfilata, per me era la gioia più grande. Ero lusingato, avevo visto tutti i suoi balletti e non mi sembrava vero di averlo lì. Allo stesso modo Béjart non riesce a stare fermo dall'eccitazione. Tocca tutti i vestiti appesi agli appendiabiti, sfiora i tessuti, studia i modelli. Tra i due si crea un'immediata empatia che non ha bisogno neanche di parole. Il giorno dopo, Versace e Béjart sono già in teatro a lavorare gomito a gomito per creare i costumi di scena di Dionysos. I ballerini eseguono, Béjart corregge, Versace abbozza i disegni. È una macchina creativa perfetta in cui ognuno ha il suo ruolo, ma si lavora tutti insieme per inventare un sogno. La prima di Dionysos, diretto da Béjart con i costumi di Versace, è un successo senza precedenti. Lo racconta Donatella Versace. Mio fratello si è messo a piangere. È grazie a quel balletto e alla genialità di Béjart si è potuto mettere in scena tutte le sue fantasie e adesso avevano un corpo. Non era più solo un genio della moda, adesso era considerato un vero artista. Béjart dona a Versace la possibilità di usare le sue coreografie per mettere in scena la sua visione della vita quotidiana, spettacolare, come se fosse stata progettata per la ribalta. Non deve più limitare la sua fantasia al vendibile, quello che la gente vuole. Può osare, sfoderare tutte le sue carte. Vestire la gente che passeggia per la strada è molto diverso rispetto al vestire i ballerini di uno spettacolo. Soprattutto Gianni può confrontarsi con persone geniali come Béjart, che di lui ha una stima immensa. Cuce, strappa, ricostruisce, rifinisce, guarda, ricomincia, aggiunge, sopprime, mi ascolta, indovina il mio pensiero, lo precede, cuce di nuovo, costruttore orafo, pittore di miniature e gigante dell'affresco. Ama troppo la vita per non preferire il teatro a tutto, persino alla moda, a costo di trasportare il teatro nella strada, negli aeroporti, nei ristoranti, nella vita di ognuno e di fare di ogni donna la Garbo e di ogni ragazzo James Dean. Tra Versace e Béjart inizia un sodalizio fertile e in continua rinascita che produce balletti indimenticabili. Ecco come li riassume Santo Versace. Si incontrarono, si conobbero, si piacquero e si amarono. Béjart si sente in debito con Versace, che mettendo in scena il suo immaginario ha messo in scena anche il proprio, dando contemporaneamente un'interpretazione tutta nuova alla danza. E decide di rendergli omaggio nel 2007, a 10 anni dalla sua tragica scomparsa, con un balletto alla Scala di Milano interamente dedicato a lui e alla sua passione. Titolo emotivo e struggente: Grazie Gianni, con amore. È come se Gianni fosse lì, presente tra il pubblico emozionato e commosso, con la sua immagine, i suoi abiti, la sua creatività, che improvvisamente poteva rivivere, grazie al grande amico e ai suoi ballerini. Mario Pasi, storico e critico, ha scritto un libro sul balletto in ricordo di Gianni. Con queste parole, nella prefazione, si sintetizza un connubio umano e artistico che è stato l'incontro del destino tra due grandi geni contemporanei. Béjart, il coreografo del secolo della danza, inizia un viaggio specialissimo in compagnia di un re della moda, di un uomo che aveva deciso di imbarcarsi su un vascello alato per lasciare di sé un'immagine diversa, fatta con i tessuti del pensiero. Sia Béjart sia Versace furono da quel momento compagni di strada di Dioniso e trovarono nel lavoro comune quell'ordine speciale fatto di sacrificio, dedizione, cura del bello che avrebbe potuto deliziare anche il rigoroso Apollo. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.